Torquato Tasso, conclusioni amorose. 1. La bellezza essere splendore della divinità, il quale penetra e riluce per l'universo in una parte più chiaramente e meno in un'altra. 2. La bellezza, ovvero il bello, come lo splendore dal sole, essere dal bene inseparabile, e tutto ciò che è bello essere buono, e tutto ciò che è buono essere bello. Terza, la bellezza allettare tutte le cose nelle quali risplende e rapirle a sé con impeto di amoroso desiderio. Quarta, il bene non destare amore sotto la forma di bene, ma solo sotto piacevole immagine di bello. Quinta, la bellezza, che sotto nome di Venere è significata dagli antichi esser padre, non madre d'amore, cioè cagion produttrice, non materiale. Difendersi non di meno. Sesta. Venere, o presa per la bellezza o per l'anima, come la prendono alcuni, potersi dire padre d'amore. Settima. Il piacere o il compiacimento non essere amore, ma principio e compagno d'amore. Ottava. Amore essere desiderio d'unione per compiacimento di bellezza. Nona. Amore essere il vincolo e il legame dell'atto e della potenza, o di Dio e della materia che vogliamo dire. Decima. Amore essere proprietà di quel che è, per cui si fanno, si conservano, si rendono perfette tutte le cose, così naturali come artificiali e civili. Undicesima. Ciascuna natura che opera, o sia conoscente o priva di cognizione, opera sempre per amore e nessuna mai per odio. Dodicesima. L'odio non esser contrario d'amore, ma seguace d'amore. Tredicesima. Amore esser non solo dall'inferiore al superiore e dall'eguale all'eguale, ma anche dal superiore all'inferiore, onde potersi porre in Dio senza notare in lui difetto. Quattordicesima. Amore tanto essere più nobile quanto governato dalla ragione. Quindicesima. Tre essere generi d'amore sotto ai quali tutti gli amori si riducono. Sedicesima. L'amore umano, abbracciare in sé tutti gli amori, che a tutti gli enti si convengono, onde propriamente nominarsi amore, ed innamorato chi ama secondo lui, e di questo amore si intendono tutte le seguenti conclusioni. Diciassettesima. All'amore umano convenirsi in particolare quella definizione che si è data all'amore in universale, cioè che sia desiderio d'unione per compiacimento di bellezza. Potersi nondimeno affermare senza contraddizione che egli sia un rivolgimento di tutti gli appetiti in un oggetto solo. Diciottesima. Amore non presupporre l'elezione, né però seguire che si conceda il destino, ma presupporre necessariamente somiglianza fra l'amante e l'amata. Diciannovesima. La bellezza dell'animo per sé sola non destare amore. È vana essere l'opinione di coloro che credono potersi amare l'animo o la virtù solamente. Ventesima. Amore giunge perfezione alla donna, né però negarsi che ella per se stessa non sia cosa perfettissima.